Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospite del friulano di Oracles. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Have a Nice Trip, come il primo che è andato in onda. Titolo? What's My Style, il brano che più ci rappresenta, rappresenta il cuore di questa band. È stato effettuato anche un video, è stato prodotto un video che troverete nel nostro canale ufficiale di Oracles Band su YouTube o altrimenti nel nostro sito oraclesband.com. E che dire, è stata la prima uscita negli Stati Uniti per noi l'anno scorso. What's My Style? La vostra esperienza durante le registrazioni e quali idee musicali che hanno dato vita a questo CD? So che avete usufruito di un master engineer inglese di grande nome. Mega master engineer lo definirei, no? Grandissimo. Mike Marsh, grande, grande persona, grande professionista, ha influito parecchio sul nostro suono. Volevamo quel suono, dovevamo andarcelo a prendere a casa loro, ce lo siamo andati a prendere. Da una persona. E ve lo siete portati a casa. E ce lo siamo portati a casa. È una persona che è un professionista che ha lavorato con i più grandi, una persona veramente a modo e affabile, quindi niente da dire, tanto di cappello. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: Not My Time. In studio ancora con i The Oracles, recensioni, quali le più lusinghiere e cosa dicono del vostro album? In particolar modo, cosa vi aspettavate dalla critica musicale? Niente di particolare, non ci aspettiamo niente dalla critica musicale, di più dagli ascoltatori. La critica è stata molto gentile nei nostri confronti, in taluni casi, in tanti altri non è entrata nella lunghezza d'onda del disco. Ad ogni modo ci sono state ottime critiche, ottimi riscontri dal punto di vista musicale, giornalistico, eccetera, e di questo siamo particolarmente contenti. Il nostro viaggio è cominciato bene e sta entrando in business class, credo, no? Beh, bene, sì, dai, sì. Mi sembra bene. Abbiamo iniziato con la recensione di Rumore, recensiti da Claudio Sorge, che non è dal non dottor è Sorge, io dal lo chiamerei, effetti. E quindi comunque è importante prendere 8 mentre i Pearl Jam ne prendono 7. Questo è, ragazzi, non è male. Prossima canzone: End in End. Noi torniamo a breve per la quarta parte di Rock Legends con i The Oracles. Rimanete ancora su Radio RCS.